No, perché so, tutte le puntate iniziano con la... questo siparietto. Sì, no, in effetti hai ragione. Forse potrebbe essere stancante. Adesso se non mi muovo. No, no, sai cosa? Magari mi metto un po' più vicino ai nostri ospiti. Potresti anche. Sono anche sono fai anche... una cosa, infatti, usa ben quello, va là. Ma facciamo così. Esatto. Che poi una volta facevamo sempre così. No, infatti. Non so perché hai introdotto questo microfono così, un po' per emarginarmi, secondo me. No, forse perché piaceva a Mia. Che salutiamo. Allora, ciao Mia. Quando torna, poi facciamo in tempo a aggiustarlo. Sì, per quando infatti. Torna Mia, dai, te lo facciamo trovare pronto il microfonone. Chi abbiamo stasera? Stasera abbiamo Alessandro Trapezio. Alessandro Trapezio. Al quale chiedo subito qual è la formula per calcolare l'area del trapezio, te la ricordi? Oddio, aspetta, 4 per 3. Base maggiore più base minore per altezza diviso 2. Bravissimo, un applauso, fantastico. Vedo che sei preparato su te stesso. Almeno su questa. Invece l'altro ospite aveva lo sguardo completamente smarrito rispetto a me. Non sarebbe stato di aiuto, è Antonio Grulli. Buonasera. Buonasera, l'uomo più barbuto di Bologna. L'uomo più alto e barbuto di Bologna. più alto e barbuto. E, Alessandro Trapezio, artista, fotografo e cos'altro avevamo detto? Professore. No, professore, ma mi avevi detto anche pranoterapeuta. Mettiamo in giro questa voce che poi... Ma guarda che guadagnano benissimo i pranoterapeuta, ma lì ti trovi la fila. Non avrai più tempo per fare la tua ricerca artistica perché sarai sempre lì a imporre le mani. Esatto. Io sono in mega paranoia oggi perché so che hanno messo a posto il mixer e bisogna stare attenti ai volumi. Perché prima la radio era bassa, ultimamente. Cioè, quando non funzionava niente ti eri abituato. Esatto. Adesso che invece è tutto aggiustato. Adesso che è tutto aggiustato, devo stare attento perché quando siamo troppo forti gracchia e non va bene, insomma. Ok. Possiamo fare qualcosa per te? No. Da questa parte? Sì, quello che possiamo fare è naturalmente è ascoltare il vocale di Marco Roma di oggi. Certo. Che però non so chi è che abbassa quel sempre. Aspetto Marco Roma a presentare un pochino anche Antonio Grulli. Sì. Buongiorno! Anche se fa freddo, io ti stringerò forte e proverò a scaldarti con tutto il mio amore, ma soprattutto il tuo cuore. Da Marco Roma, buongiorno! Oh, e buongiorno a te, Marco. Buongiorno Marco Roma, sempre spettacolare. Marco Roma è sempre di buon umore, è un esempio per l'umanità. No, assolutamente. Io l'ho sempre sentito di buon umore. Sì, no, è vero. E quindi veniamo anche ad Antonio Grulli, curatore Antonio indipendente, giusto? Sì. Ma sì. Forse. dipendente. È una questione filosofica esistenziale. Esatto. Siamo mai veramente liberi da qualcosa? Domandiamocelo. No, in effetti un curatore invece dipendente che cosa non cura? Lo so perché, cioè, è la Molteni al mambo, giusto? Lei è una curatrice dipendente, o la Luliana Zanetti indubbiamente è una curatrice dipendente. Ok, quindi sì, ci sono anche i curatori dipendenti, ma i curatori dipendenti anche non Lorenzo possono Baldi, curare forse. Nient'altro, no? Lorenzo per esempio cura un sacco di roba, ma ogni tanto si prende le sue libertà, diciamo. Uliana non lo so, Uliana è già più difficile, comunque deve chiedere sicuramente delle autorizzazioni per curare qualcosa, non per il mambo ma per i cavolacci suoi. Mm-hmm. E comunque magari un giorno glielo chiediamo, ci risponde in modo più fate più la puntata puntuale. Sui curatori dipendenti, potremmo fare due squadre, no? Curatori, esatto. Dipendenti contro una bella partitura di calcio, oppure a flipper come si faceva ai vecchi tempi, no? Cos'è che era quella del flipper? Ricordami Federico Croci? Ma no. Vabbè, fa niente, dopo mi verrà in mente. Ci devo pensare un attimo, nel corso della trasmissione usciranno delle strane parole. E dunque perché abbiamo questi due loschi individui qua? Nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne abbiamo invitato due maschi con la barba. Esatto, due maschi con la barba, dobbiamo distinguerci così. Non era previsto, non so, non ti sei organizzato tu, essendo sfruttata e lavoratrice a gratis, non mi sbatto al posto tuo e quindi un cazzo. Per salvaguardare la mia indipendenza. E quindi anche quest'anno il patriarcato lo risolviamo domani. Ce lo teniamo. No, lo riserviamo. No, anzi, anche quest'anno il patriarcato lo risolviamo l'anno prossimo, no? Sì. più o meno così, giusto? Insomma, sì, vabbè, adesso non aprirei questo fronte che potrebbe essere lungo. Sì, no, infatti, anche perché non credo che sia compito di Coxo Spaziale risolvere il patriarcato, però no, esatto. Vabbè, insomma, diciamo che non ci siamo sforzati ma Antonio Grulli ha anche curato un padiglione, però adesso se andiamo su questo terreno dopo ci azzuffiamo, perché e non bisogna azzuffarci perché dobbiamo parlare invece azzufferemo per parlare di Italo, ditelo voi, Zuffi. Italo Zuffi. Italo Zuffi, che salutiamo, che ci sta ascoltando. Speriamo. Ah, così, sì. Ciao Italo. Così ciao Italo, siamo riusciti a far passare i primi 10 minuti della trasmissione senza citarti minimamente. Esatto. Perché Antonio Grulli cura una mostra di Alessandro Trapezio di cui il soggetto è Italo Zuffi, giusto? L'ho detta bene come descrizione? No, perché in realtà è una correggetemi. È una sorta di collaborazione. Ma, sì, no, è una collaborazione a tutti gli effetti, nel senso che è un lavoro fatto proprio insieme, quindi a quattro mani. Si dice una volta. Alessandro Trapezio, Italo Zuffi, fotografo più soggetto. E quindi sì, è fatta a quattro mani. Basta. Non è solo soggetto dell'opera, ma hanno fatto tutto a quattro mani. Anche le fotografie, però, materialmente le hai fatte tu. Sì, però no. si vede tanto nel lavoro che ha scelto lui l'inquadratura. Non ha scelto l'inquadratura, però c'è tutto un lavoro del corpo che fa Italo, che fa parte anche proprio del suo tipo di lavoro nella messa in posa, nella scelta dell'azione, che mi ha portato ad arrivare a quell'inquadratura. È proprio davvero stata un'alchimia che si è creata durante questo percorso che abbiamo fatto ormai nel 2014, perché le foto poi risalgono a quell'anno. È stata un'alchimia o un'alchimilla? L'alchimilla è arrivata dopo, prima era stata un'alchimia. E quindi davvero è uno di quei casi che posso dire in tutto e per tutto che è stata una completa collaborazione. Non ha mai prevalso una figura o l'altra nella realizzazione del lavoro. Quindi è un lavoro che avete fatto insieme, è un lavoro che firmate entrambi? Assolutamente, sì. Quindi è un lavoro di Italo Zuffi e Alessandro Trapezio, curato da Antonio Grulli, con un titolo che mi ha incuriosito molto. Io, per rimanere, come dire, nella stessa situazione psicoesistenziale dei nostri ascoltatori, non sono andata a vedere la mostra, così non ne so niente. Ma come? No, ma ci andrò, cioè non sono andata a vedere la mostra per avere le stesse domande in testa, okay, di chi ci ascolta, che non c'è andato. Sei riuscita a rigirarla bene, dai. Vero? Ma se volevo rigirarla in modo opportunistico potevo mentire. 333 180 94 94, se volete mandare messaggi ad Alessandro e ad Antonio. È arrivato un messaggio che dice che Marco Roma ci tradisce mandando anche dei vocali a Radio Popolare a Milano. No, che ma veramente? Però a Radio Popolare glieli mandano in onda? Gliele manda in onda Bachi? Non lo so, Michela da Bologna. Ho sentito anche la Zazzara, mi sembra. Veramente. Ah dai, incredibile, wow. Hai capito, abbiamo perso l'esclusiva. No, abbiamo perso l'esclusiva, ma abbiamo guadagnato una persona famosa, per cui siamo contenti, insomma. Ok. Ah, dice no, non dovevate dire, scusa Michela. Ormai è andata. Tutto quello che passa al 333 180 94 94 è pubblico. Allora facciamo subito un messaggio a tutti gli ascoltatori: se volete mantenere la propria privacy, non scrivete al 333 180 94 94, cioè, almeno durante l'ora di Coxo Spaziale. Esatto, perché qua... Ma volevo dire una cosa, si intitola E poi svegliarsi presto, il primo album di Nervi, in uscita per Pioggia Rossa il 29 novembre. Una lettera aperta, diretta e riflessiva, che cattura l'essenza della generazione contemporanea, che non è la mia o la tua, Chiara. Magari i nostri ospiti sono un po' più... Sai che mi sono un attimo distratta, perché pensavo a questa cosa di svegliarsi presto e io pensavo... Sospesa tra nostalgia, frustrazione e ricerca di autenticità in un mondo complesso e contraddittorio. Ci ascoltiamo Bevi Troppo, che sembra dedicata a me naturalmente. E ringraziamo naturalmente Agnese di Pearl Press che ci ha segnalato questo disco. Ascoltiamoci Bevi Troppo di Nervi. Se non interessa che fumare fa male, che non sbaglio sbagli mai niente, non vuoi proprio cambiare. Con te questo inverno è una stagione all'inferno. Ma non sono Rambo, voglio morire da vecchio. E anche stasera usciamo senza senso. Facciamo un salto e ci cadiamo dentro. Guido di notte con un faro spento. E la mattina chiami ed io non sento. Sai che penso? Bevi troppo, bevi troppo. Siamo soli senza un soldo. Parli sempre sbiascicando. Bevi troppo, bevi troppo. Dammi retta, bevi troppo. Completo, voglio essere normale. Ed ogni sera che non senti freddo. E anche stasera dici aspetta e presto. Anche stasera cerchi un nuovo posto. Oggi dove si va? È bello quando vi alza la... esatto. Il microfono così senza dirvelo. Speravi di coglierci in castagna, perché hanno cambiato la console anche dalla vostra parte. E quando vi alzo voi ve ne accorgete perché si abbassa la musica. Ma non stavamo dicendo niente, eravamo in religioso silenzio. Io in attesa di farmi spiegare dal curatore Antonio Grulli, che, diciamo, by the way, per inciso è stato anche il curatore del padiglione Albania l'ultima biennale, chiuso ieri con grandi spargimenti di lacrime, sì. Disperazioni varie. Si sono visti i fuochi d'artificio fino qua, esatto. Sì, volevo sapere il titolo, perché è un titolo bizzarro questa mostra, magari. Moraduccio? Moraduccio è un luogo, è un luogo che secondo me molti ascoltatori della radio lo conoscono, perché è un luogo di scorribande estive, fresche al fiume a fare il bagno. Ma è nell'Imolese? È nell'Imolese, sopra Imola, quindi è un luogo, io e lei lo conosciamo proprio perché ci è capitato d'estate di andare, siamo dei grandi amanti dei fiumi, d'estate spesso preferiamo andare più al fiume che al mare. Anche perché veniamo da zone di fiumi, di torrenti, ma è soprattutto legata alla biografia di Italo, perché Italo è di quelle zone, una zona un pochino più a valle, però ha frequentato molto quei luoghi. Quindi quando è nata l'idea, che poi magari vi racconterà Alessandro, 10 anni fa ormai, di lavorare assieme, di fare loro due un lavoro a quattro mani, hanno scelto di andare e realizzarlo in questi luoghi molto molto belli sopra nelle vallate sopra Imola. L'ascoltatore attento forse ha sentito qualche click ed è Alessandro che sta facendo delle foto analogiche con una Pen II, sbaglio o no? Un Olympus Pen II, esatto. Sì. Vedi? Che occhio. Un oggetto che mi è tempi quasi. Sì, di altri tempi. È un oggetto che ha questa particolarità di fare le foto a mezzo frame. Half frame però in analogico. Ma che... dunque queste fotografie, l'abbiamo già detto che si tratta di fotografie, già detto qualcosa della mostra, forse no. Allora diciamo anche questo, così poi racconta. Io racconto la mostra. Racconta la mostra. La mostra sono una serie di... E poi tu racconti com'è nato tutto quanto. Vediamo. Perché la mostra è solo l'ultimo capitolo di un progetto ampio che appunto si è sviluppato nell'arco di 10 anni. Però se voi adesso venite da Alchemilla, e vi invito a farlo, perché la mostra è veramente molto bella e il posto è stupendo e la mostra è pensata appositamente per gli spazi del... per gli spazi di Alchemilla, vedrete queste grandi fotografie che sono larghe circa 2 metri tra l'altro, tutte stampate in blueback, quindi anche con una tecnica volutamente molto brutale, povera. A me piace molto la stampa blueback, credo che abbia alcune caratteristiche interessanti. E in questi scatti si vede un paesaggio bellissimo di fiumi, castagni, situazioni di campagne con anche qualche parte di calanchi, e all'interno di questi paesaggi, soprattutto in dialogo con i fiumi, con le rocce del torrente, vi è questa persona che è Italo Zuffi a tutti gli effetti, che si muove e che performa. In alcuni momenti sembrano scatti rubati, in altri momenti invece si nota proprio una dimensione performativa anche teatrale molto forte, anche con un certo tipo di rigidità e di enfasi no, perché poi Italo ha sempre una sua freddezza di fondo, però è tutto molto, in molti scatti sono molto artificiosi, ma non teatrali, in effetti non teatrali, sì, e hanno questa capacità di generare qualcosa di perturbante che spesso torna all'interno delle opere di Italo, che possono sembrare calme, fredde, ma poi si sente una profondità anche in grado di sì, di perturbare. Sì, devo dire che io che vengo dal Modenese, e quindi non avevo presente questo luogo Moraduccio, e mi ero invece fatta l'idea che Moraduccio fosse una specie di nome di un personaggio mitico, no? Che a questo punto si attaglia, perché mi sembra che il nome si, come dire, vestisse bene la figura di Italo Zuffi. Questo in effetti è un po' un Moraduccio, è un po' un Moraduccio, sì, cioè un Moraduccio, capito? Moraduccio, questo personaggio mitico ma allo stesso tempo anche molto terrestre, ho anche un modo di dire, va là che sono bel Moraduccio, te. Lanciamo questo termine, proprio un bel Moraduccio, soprattutto che mi ricordo quando è venuto in radio, non mi ricordo a quale 400esima puntata, e tu hai raccontato gli scherzoni che facevi a Italo quando eravate al liceo insieme, lui che restava giù dal bus, per me era proprio Moraduccio. E gli toccava di aspettare un'ora e per il esatto. prossimo 101. È lì che era. Che dagli scherzoni, mamma mia. No, infatti, la mattina di gennaio. Probabilmente nella sua formazione questo è stato anche fondamentale, perché chissà essere poi che cosa pensava. Da Pasquini è stato fondamentale per la sua. Ecco da dove nascono alcune cose, ora capisco. In quell'ora esatto. che doveva passare ad aspettare il bus, sì, perché naturalmente ha elaborato tutta la sua poetica. Infatti, capito? No, anche perché naturalmente appunto gli facevamo perdere l'autobus trattenendolo io e altri suoi. Adesso lo stiamo raccontando, ma gli ascoltatori lo sanno già perché ci ascoltano tutte le puntate, da 10 anni. No, perché quindi... poi la cosa che facevamo era appena aveva perso l'autobus, noi andavamo a casa. Perché noi bolognesi potevamo andare a casa e lui invece doveva aspettare lì da solo, naturalmente. Povero. E diventava Moraduccio. Poverino. Ecco. Sì. E quindi niente, Moraduccio non è un personaggio perché mitico. Perché voi avete però... studiato assieme al liceo, all'accademia e poi anche in Inghilterra vi siete ritrovati o sbaglio? Sì, no, noi adesso conduco io. Abbiamo in realtà in accademia noi non abbiamo studiato insieme perché Italo si era iscritto all'architettura mentre io facevo pittura da Pozzati, lui si è iscritto all'architettura, poi quando ha deciso che architettura non faceva per lui io ero già scappato in Inghilterra, per cui lui dopo si è iscritto da Garutti. Ah sì sì. Architettura dove si era iscritto? A Firenze. Ah cavolo, vedi, certo. Se restava lì e allora faceva l'accademia con l'architettura con me. Vedi. Tutte le nostre vite sarebbero state completamente diverse. No, era lui è andato a Venezia. Allora non cambiava nulla. Vabbè, esatto. Torniamo a Moraduccio invece e alla genesi di questa collaborazione. Come vi è venuto in mente? Perché? Cosa? Boh. Raccontaci un po' tu a ruota libera. Certo, allora praticamente come dicevo prima era il 2014, quindi io e Italo ci conoscevamo già da un pochino e tra l'altro come ci, vi siete conosciuti? Ci siamo, che qua è poi tutto un collegamento, è tutto un cerchio, tutto magna magna, è tutto magna magna. Ci siamo conosciuti tramite Antonio, perché Antonio aveva già lavorato con lui già tantissimo tempo prima, se non sbaglio. Sì, forse le prime cose che ho fatto con Italo risalgono al 2004-5, qualcosa del genere. Quindi, non ricordo, sì, appena io ero arrivato a Bologna e ho iniziato a vivere con te, quindi da. Sì. Quindi nel 2014 io avevo già fatto un ritratto a Italo l'anno prima, perché avevo fatto una piccola mostra per fotografia europea in cui avevo messo un ritratto di Italo su delle bustine da zucchero. Ah, vero. Ce ne sono ancora in circolazione? Sì, sì, sì. Oltre a Italo. Ce l'ho. Ah, sì, certo. Grande. Ce l'ho. Una bustina con una faccia di Italo. Oltre a Italo c'erano anche Favelli, la Sissi e Trevisani. E il testo sull'altro lato della bustina l'aveva scritto Antonio. Comunque, avevamo fatto tutta una mostra di ritratti, sì, su bustine di zucchero. No, bellissimo. Geniale, e si poteva trovare solo in determinati bar di Reggio Emilia. Ma fantastico questo progetto. Sì. E vabbè, comunque è da lì che poi ho iniziato a fare da questo ritratto di Italo. Poi c'era venuto in mente di fare altri ritratti. Quindi l'anno dopo. Eravamo partiti proprio con uno schema, con degli esempi, volevamo fare dei ritratti che potevano servire a lui e mi faceva anche piacere a me. Però poi quando abbiamo fatto questo giro verso Moraduccio, che oltre che essere un luogo legato alla giovinezza di Italo, è un posto dove da quando io sto a Bologna d'estate vado spessissimo. Perché e tu invece da dove vieni? Io vengo da Pallerone, che è un piccolo paese. Pallerone. Da dove vengono anche gli Starfuckers, sempre sì, adottati da Bologna, che è vicino ad Aulla e è vicino al paese di Gorasco, da dove viene Antonio. Ma quindi, perché tu non sei proprio di Aulla, no, Aulla, no, Aulla. Nessuno è di Aulla. Nessuno è veramente. Aulla nessuno è una specie di. È come. È un, non c'è niente. È un punto mediano trovato tra tanti paesi. Okay, no, quindi non esiste il centro di Aulla. No, ma non esiste, è vero, hai detto una cosa vera. Aulla non ha un centro. Ah, non è vero. È una periferia. Cioè, esiste un centro geometrico, come tu mi insegni, no, che ti chiami Alessandro Tava, però non esiste un centro sociale. No, non è un vero centro. L'unico vero centro è rappresentato dalla statua di Craxi, vero? Sì, che è proprio il centro fisico del paese. Ma c'è la statua di Craxi. Era di Aulla, Craxi? No, perché quelle zone. Scusate ragazzi, stavo un attimo divagando. Esatto. Quelle no? zone sono sempre state zone fortemente socialiste, anche durante gli anni di grandi problemi di Bettino Craxi. E il sindaco, grande sostenitore proprio, il sindaco locale addirittura lo andava a trovare ad Hammamet e ha fatto realizzare una statua dedicata, una statua di Bettino Craxi. Sì, devo dire che ce lo sogniamo adesso. Sì, no, ed è vestito un po' come si vestiva negli ultimi tempi ad Hammamet. Ah, fantastico. Sì, sì, stanco, un po' invecchiato. Sì, somiglia anche un po' a Pertini. Ogni tanto vanno a romperla, anzi spessissimo vanno a romperla. Ah, sì? Sì, sì, la vandalizzano continuamente. Sì, sì. Però viene riparata, testa con testardaggine. Sì, no, con gli ultimi sindaci un po' meno, però insomma dai, è pur sempre lì. Noi quando viene qualche amico lo portiamo subito lì perché fa subito effetto. Quindi meta per gita fuori porta, fantastica, andare a vedere ad Aulla. Gacci e Crax. Quindi praticamente ad Aulla è una specie di cosa dove non c'è un centro, però nel centro geometrico c'è la statua di Crax. Praticamente è bellissima questa cosa. Per cui Cattelan, quando alla Biennale di Carrara, non ha inventato niente quando ha fatto. Cattelan ora non vorrei dire cavolate, credo che abbia saputo di questa statua, anche perché la statua era stata realizzata dallo stesso laboratorio dove Cattelan ha realizzato le opere. Quello che poi gli ha fatto anche causa. Non lo so, ora questo non lo sapevo. Però ha realizzato, diciamo, e anche credo l'opera che poi ha fatto per il cimitero. Sì. L'ha realizzata in quel laboratorio lì dove avevano fatto la statua di Craxi. Quindi lui sicuramente ha preso ispirazione. Insomma. Beh, se volete facciamo un'altra puntata, che io ho un sacco di aneddoti sulla anche statua perché di Craxi. Adesso siamo già a metà. Allora, i nostri ospiti. No, torniamo su. Esatto, torniamo un attimo, anche perché fra due minuti va la pubblicità. Sì, in effetti. E i nostri ospiti all'inizio erano preoccupati che siamo in pochi, di cosa parliamo tutto il tempo, e finora non abbiamo detto ancora quasi niente. No, infatti prima della pubblicità concludo. nel 2014, quindi andiamo a fare questi ritratti che poi in realtà non facciamo, facciamo e non facciamo, perché poi diventa un'altra cosa, perché ci facciamo trasportare dal paesaggio e dal momento e inizia a diventare quello che poi è diventato il progetto Moraduccio, in cui Italo effettivamente performa, come diceva Antonio, però anche si presta al ritratto e a un certo punto anche scompare e rimane la natura fortissima di quel paesaggio. E quindi è nato così, solo che poi è rimasto, il progetto stesso è rimasto molto sospeso, perché poi ci abbiamo rimesso mano nel 2020. E nel 2020 abbiamo realizzato un libro, che è un multiplo, firmato e numerato da entrambi, solo che, come tutti ricorderete, il 2020 è stato un anno un po' così. Cioè, sì, è stato un anno un po' e così. Quindi è passato un pochino, diciamo che sottotono. Un po' sottotono, e grazie a Camilla Sanguinetti di Alchemilla, che saluto. Ciao, ciao Camilla. Camilla. Ciao Camilla. Che, a cui è piaciuto tantissimo il libro, alla fine poi abbiamo pensato di... è venuto da sé di fare la cosa d'Alchemilla, cioè nel senso abbiamo capito, cioè, che sarebbe avete stato fatto bene prima il catalogo e poi la mostra, in un sì, certo perché senso poi avete invertito l'ordine dei fattori. Sì, anche se poi ha guardato malissimo no, è vero, anche se proprio male. No, è che sono due cose, sono due esatto. cose legate, ma sono vivono in maniera indipendente e hanno anche, infatti, cioè il modo in cui le fruisci è anche molto differente, nel senso che poi il lavoro, il libro è quasi un libro d'artista, è a tutti gli effetti un libro d'artista fatto a quattro mani, quindi vive che di non vita... ce l'hanno portato però colpa mia. Vive di vita propria e ha anche un andamento quasi più cinematografico, perché con questo sfogliare sembrano quasi dei frame di una storia, mentre invece la mostra, le fotografie, questo grande formato che non dico che ti porta a percepirle quasi con un rapporto uno a uno del corpo, però sì, perché comunque sono formati di larghi quasi ecco due perché metri. Praticamente così non diventano puoi fare a grandezza una domanda naturale. Ai 32 no. Io e Pasquini abbiamo approfittato per litigare durante la pausa. Infatti, no, perché io sono molto collerico. È molto collerico. Allora, è stato molto brutto. No, ma soprattutto gli piace un po' provocare la gente che viene qui ad aiutarlo con la trasmissione quando esatto. non ha la spalla. Allora ci stava dicendo qualcosa che non ricordo più, però Antonio, mi sembra. Di cosa c'era? Diceva che effettivamente che quindi la mostra, le opere della mostra sono molto diverse, perché questo aspetto performativo invece viene fuori in maniera forte. E abbiamo anche calcato nell'allestimento, abbiamo anche calcato molto su questo aspetto, quindi abbiamo messo un'illuminazione con degli spot, delle luci a terra tenute da un treppiedi, da dei treppiedi, quindi diventa tutto molto teatrale anche l'allestimento. Ecco, io secondo me stavo per fare questa domanda, cioè in questa grande scala che avete deciso per la stampa delle fotografie, il corpo quindi di Italo risulta a grandezza naturale? No. O è oversize? Oversize, dipende. Alcune foto è un dettaglio della fotografia, quindi potrebbe essere 30-40 centimetri, in altre è ripreso da talmente vicino che ovviamente la testa diventa più grande. Ce n'è una in cui c'è l'orecchio che sa almeno 1,60 m. Sì, perché comunque sì, andate tutti a vedere l'orecchio di Italo Zuffi. Esatto. dei ricciolini bellissimi che si vedono nel dettaglio. Esatto, è un ciuffo di 1,40 m. Ah, però quindi, insomma. No, la mostra è bellissima, Cioè, questo lo devo dire. Non potrebbe non essere bella, anche perché avrei anche potuto non dirlo. Cioè non lo dico sempre, no, perché veramente poi nello spazio funziona molto bene. Sì, perché Alchemilla è uno spazio bellissimo, nonostante sulla carta potrebbe sembrare un posto difficile dove fare le mostre, ma in realtà poi le cose, se riesci a trovare la chiave giusta, vengono fuori in maniera fantastica. Sì, c'è giusto una parete dove c'è questa bambina dipinta dietro che dà un po' fastidio. Stai attento perché rischi attento grosso. Perché sì, chi sa mai toccare di chi le bambine è, le bambine sono poi oggi sacre, ancora peggio. È stato il battesimo proprio certo. Di Alchemilla la bambina, lo spirito del luogo assolutamente. Io sono un coraggioso. Io a proposito dello spirito del luogo, essendo io una grande fan di Italo Zuffi, che è uno dei pochissimi artisti e artiste all'interno del mio Olimpo personale, ho tutti i libri di poesie di Italo Zuffi, li ho portati qua in radio. Adesso vi leggo un pezzo a caso, così l'ho aperto a caso giusto per imbarazzarlo, visto che ci sta ascoltando. Ma se li ha pubblicati, infatti ha ragione, non è che sono il suo diario, ma le ha pubblicate, non è che le vuole lette a coccio spaziale. Però vabbè, andiamo avanti. Comunque, siccome le ha pubblicate, io le ho acquistate e quindi sono qua, mi prendo questa, poi dopo non lo so, me la vedrò con Italo nei giorni successivi. Infatti. Ogni mattina ci recavamo a compiere la nostra visita. Ogni mattina la visita era ripetuta identica. Appena sbarcati, un bus ci avrebbe raccolti e percorso l'abituale tragitto, lasciati a un parcheggio in fretta abbandonato per portarci in cima all'altura, rasentando le mura e attraversare celermente il portale, talvolta spintonandoci senza ritegno. Questi sono versi, secondo me, tipicamente zuffiani. E che hanno qualcosa di biografico. Infatti, come stavo pensando prima. Esatto. Sì, ma sono tutti. Sì, però è vero, sono molto. È lui, è proprio lui. Sono tutti biografici. È molto. Il suo lavoro è molto legato alla biografia. Mi ricordo. Sì, le immagini uno... anche. Che richiamano anche le immagini poi su cui hanno lavorato con Alessandro, in fin dei sì, conti. Sì, infatti, visto aperto a caso. Però sì, infatti, è incredibile. Io non l'avevo, no, infatti Italo io non l'ho mai letto. Prova ad aprirne una a caso anche tu, vediamo. E leggi. Ecco, leggi questa. Devo fare interpretazione? Okay. No, chiaro. Insomma, come vuoi. È uomo di teatro, Alessandro. Allora obbligatoriamente. Propongo un nuovo inizio, non lo consideri. Poni condizione il mio stare nel mondo. L'avvio oggi, l'attacco di questa conversazione che riprendiamo da capo è in sogno, una scena plausibile ambientata lungo una spiaggia. Hai deciso per questa nuova partenza, le nostre mani si afferrano e contorcono. L'angolo della menzione. Stavolta siamo stati radiofonici. Hai stavolta visto? Ce l'abbiamo fatta. Va bene, perché c'era Alessandro. Perché c'era Alessandro che giustamente ne vuoi leggere un'altra? No. Ma se no mi viene la Ugo Pagliai dopo. No, esatto. Dopo facciamo leggere magari a Brulli dopo. E poi dopo no, anche a Pasquini. Raffreddore che ho, fatemi leggere. È raffreddore. Sì, martedì 26 novembre sarebbe domani alle 17:30 presso la saletta Concetto Pozzati della Biblioteca Mambo si svolge la presentazione dell'opera La natura dello spazio logico di Giulia Marchi. È entrata nella collezione permanente del Mambo. Intervengono l'artista Giulia Marchi, il curatore Leonardo Regano e il direttore del Mambo Lorenzo Balbi. La natura dello spazio logico è un lavoro composto da 6 fotografie da negativo medio formato stampate su carta baritata ai sali d'argento. Il riferimento del titolo dell'opera è al filosofo austriaco Ludwig Wittgenstein e alla sua ricerca sullo spazio. Tutto questo domani alle 17:30 alla Biblioteca del Mambo in via Dominzoni 14 a Bologna. Dal 26 novembre alle 21, poi ancora il 27 alle 19, dal 28 al 30 novembre alle 21 ed infine domenica 1 dicembre alle 18:30, poi ve le ricordiamo tutte queste date complicate, rette parallele sono l'amore e la morte. Il tema geometria in questa puntata batte forte di e con Oscar De Summa, progetto Luci e Scene di Matteo Gozzi. Il drammaturgo, regista e attore Oscar De Summa decide di raccontare la storia di Maria Rosaria, che viveva vicino a lui quando erano entrambi ragazzi e che visse un amore disapprovato dalla sua famiglia, ma proprio il giorno in cui inizia a scrivere viene a sapere della morte della donna, evento che lo turba profondamente. Al Teatro delle Moline, in via delle Moline 1B a Bologna, in tutte queste date che poi vi riporteremo sul blog. Naturalmente, scusate, allora ne approfitto anch'io. Certo. Il 3 dicembre, il 3 dicembre, penso verso le 6:30-7, perché quello devo dire la verità. Ancora lo dobbiamo definire. Il 3 dicembre è martedì della settimana dopo. Prossima. Per cui ne parliamo. Sì. Facciamo finta di niente, vai avanti. Ve lo sì, dico. Sì, dicelo. E sempre all'interno della sala Concerto Pozzati, sì, al Mambo, okay, ci sarò io con Alison Grimaldi Donawi, credo anche Lorenzo Balbi, vecchio amico di questa trasmissione, e ci sarà un incontro sul rapporto tra poesia e critica d'arte. Io ho invitato Alison, visto che stasera abbiamo parlato di poesia, perché ho fatto un anno e mezzo fa circa, ho vinto questo bando di ricerca con l'Italian Council del Ministero, ed era per una ricerca di tutto su questo tema, e sarà uno degli eventi di restituzione di questa ricerca. Fantastico. Benissimo. E lo menzioneremo naturalmente ci di nuovo saremo anche la settimana prossima. E quindi potevamo lunedì vengo con Alison. Lunedì vieni con Alison, ci sono c'è un sacco di gente. No. Beh, c'è Camilla con la Veronica Santi, per cui vieni con Alison davvero. Scusami, Camilla non è venuta stasera, viene lunedì. Stasera non poteva, c'era. Preferisce Veronica, evidente. È evidente. Vabbè, ci infiltrerà. Camilla ce lo stiamo segnando, Segnatevelo infatti. Io adesso però voglio dire che siccome lunedì prossimo non ci sarò, non è che fate queste illazioni che io preferisco loro. Perché non è che come no? Devi preferire. Sì, no, infatti poi diremo però la Chiara Pergola preferisce Grulli. Preferisce andare alla riunione di scuola di Firenze, perché infatti sarà così la realtà. Detto questo, mercoledì 27 novembre invece, dalle 16:30 alle 19:00, si tiene nella sala conferenze del Mambo il seminario Tradurre i corpi, tradurre i concetti, un incontro tra arte e filosofia con al centro della sua riflessione l'importanza della pratica della traduzione. Ospiti l'artista Kelly Spooner e il filosofo Bruno Haas. La discussione è animata da Carlo Gentili, Flavio Alessi e Chiara Montalti. A coordinare lo scambio Eleonora Caramelli e Diego Donna. Il seminario rientra nelle due giornate 27 e 28 novembre 2024, tradurre i corpi, tradurre i concetti, un incontro tra arte e filosofia. Tutto questo alla sala conferenze del Mambo in via Dominzoni 14 a Bologna. Udite, giovedì 28 novembre alle ore 14, adesso capirete perché, nell'ambito della mostra Tramando, le acquisizioni di Francesco Arcangeli per la Galleria d'Arte Moderna di Bologna, visitabile nella Project Room del Mambo fino al 6 gennaio 2025, ogni giovedì dal 28 novembre al 19 dicembre 2024, dalle 14 alle 16, a me capitano tutti questi con appuntamento super appuntamento. È in programma, la curatrice è presente, quattro appuntamenti che vedono Uliana Zanetti, curatrice indipendente, la curatrice dell'esposizione, instaurare un dialogo diretto con le visitatrici e i visitatori interessati ad approfondire i contenuti della mostra al Project Room del Mambo in via Don Menzoni 14, Bologna. Stavo pensando che adesso faccio un gruppo di persone che vanno a importunare Luliana Zanetti e a importunare importunare in che senso? Importunarla sulle scelte di questo Tramando, le acquisizioni di Francesco Arcangeli eccetera. Ma perché me dovrebbero essere controverse queste scelte? No, cioè, mi sembra che sono abbastanza consolidate da proprio la storia. Adesso con la S maiuscola vado alla scuola di didattica dell'Accademia, gli dico andate tutti a parlare con la curatrice, a farle tutte le domande possibili e immaginabili, perché non succede spesso che i curatori si mettono a disposizione. Per esempio Grulli non l'ha mai fatto questa cosa di il curatore è presente, non so per quale motivo improvvisamente sono presente anche qua io. Infatti, cioè, non so, sono uno dei più presenti. Scusate, io a questo punto devo dire questa cosa, è stato talmente disponibile che in una mostra Illo Tempo, stiamo parlando del forse 2010, addirittura lavò i piatti. Era così presente, cioè, che si mise a lavare i piatti. No, io devo dire la verità che è magari un po' sfuggente, questo sì. Però una volta che c'è, veramente c'è, è proprio un curatore che è molto molto molto presente, e quindi Antonio è presente. Grazie, sì. Grazie, chiaro. Vedi che preferisce me. Hai visto? Non ho detto che preferisco vabbè. Comunque andiamo avanti, giovedì 28, stava a te però. Stava a me? Questo, ok, sì. Hai ragione, sì, in effetti sta giovedì 28 novembre 2024 dalle 17 alle 20 all'interno della reception del Mambo si tiene By All Accounts, This Was a Very Ordinary Man, una performance dell'artista Kelly Spooner eseguita da Michelangelo Miccolis. Nella performance Spooner presenta un uomo che cammina in modo discreto nello spazio espositivo distruggendo delicatamente una saponetta bianca. Questo è nel foyer del Mambo in via Dominzoni alle 14 a Bologna giovedì 28 alle 17. È venerdì 29 novembre alle ore 18, inaugurazione della mostra Garibaldini in uniforme dall'Uruguay alle Argonne. Mostra a cura di Pietro Compagni. Contrariamente a quanto si crede, non tutti i garibaldini indossavano la famosa camicia rossa. Molti dei corpi, finalmente era ora di Certo, molti dei corpi, bande, legioni, colonne, brigate, compagnie, battaglioni che formarono i ranghi garibaldini indossavano uniformi proprie fornite dai loro organizzatori oppure dalle popolazioni della località in cui questi reparti si formavano. Una mostra di ricostruzioni grafiche cimeli originali al Museo Civico del Risorgimento in piazza Carducci 5 a Bologna. Invece sabato 30 novembre alle ore 17 inaugura negli spazi di Galleria Studio Cenacchi in via Santo Stefano 63 Impronte, mostra personale di Maurizio Tangerini. L'esposizione curata da Jacopo Cenacchi, che salutiamo, comprende 15 opere di vari formati, 14 delle quali inedite. A me interessava proprio la quindicesima. Che Tangerini approfondisce con questi nuovi lavori i temi della ricerca degli ultimi 3 anni, continua la riflessione sul nostro rapporto con il territorio che abitiamo e le impronte che vi lasciamo. Questa è la Galleria Studio Cenacchi in via Santo Stefano 63 a Bologna. E sabato 30 novembre presso la libreria musicale Ut Orpheus, La metamorfosi di Kafka, un racconto di parole e immagini con Emanuela Marcante e Daniele Tonini, per entrare assieme nel capolavoro di Kafka in contrappunto con le incursioni metamorfiche cinematografiche di Ivan Cipressi e metamorfiche canettiane di Antonello Lombardi, testi dalla metamorfosi di Franz Kafka e da opere di Elias Canetti con immagini e spezzoni cinematografici e musiche. Ingresso offerta libera, libreria musicale Ut Orpheus, via Marsala 31/E. Mi sono domandata per tutto il tempo se Ut dovevo dire Ut o Uti. Sai che non ne ho la più pallida idea. Ut. Orfeo, però perché è tutto in maiuscoli? In è per quello che me lo sono domandata. Quello che posso approfittare di questo altro rullo. Il sabato è anche la giornata ideale se andate a Studio Cenacchi, poi per andare dal Camilla in via Santo Stefano 43, dove c'è Moraduccio aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. E quindi, visto che siete già lì, fate un giro. Ma tu ci sarai? Sabato potrei esserci. Sarà presente. Sarete l'autore. Presente non sempre, ma il sabato o il mercoledì suo appuntamento. Però il curatore non è presente, come ti avevo detto. Va bene, non può essere. Allora, il curatore quando è presente, Stefano, per rispondere alle domande. Al finissage che sarà? 21 dicembre. Il 21 dicembre, allora ce la possiamo fare. No, cioè abbiamo un sacco di tempo. Infatti. Per andare, per formulare nella nostra testolina le domande, da poi rivolgere. Avevate un'ora qua, comunque. Ah no, loro, dici no, il sto pubblico. Parlando okay, okay. Tutti gli altri. Ci saremo tutti, ci saremo. Tutti gli altri. No, anche perché l'ora, altri. Fra l'altro, sta passando, che è spaventosa sta cosa. No, infatti abbiamo 5 minuti per farci dire quello che non hanno detto in tutta l'ora. Allora, cosa non vi abbiamo chiesto? O cosa non avete detto? Allora, io non ho chiesto a Antonio Grulli come ha conosciuto Italo Zuffi, perché come l'ha conosciuto Alessandro Trapezio ce l'ha raccontato, grazie a Italo Zuffi. Tu invece allora, come l'hai conosciuto? Allora. No, aspetta, come Alessandro ha conosciuto Italo, che l'ha conosciuto tramite sì, me. Sì. Okay. Quello l'abbiamo già detto. Io ma non tu... me lo ricordo come ho conosciuto Italo Zuffi, credo a qualche opening. Forse tramite Davide Ferri, forse. No, no, Davide Ferri io l'ho conosciuto molto dopo. Ah, l'ho conosciuto nel 2008. 2008, quindi viene prima la conoscenza tra te e Italo, sì. della conoscenza tra Davide e Italo. E la conoscenza tra te e Davide. No, tra Davide, no, Davide e Italo. Davide e Italo penso si conoscessero già da molto prima, okay. Anche loro, penso più o meno in quegli anni sempre. E anche perché quando ho iniziato io a lavorare con Italo, più o meno ci lavorava anche Davide Ferri. Ma al di là di questo triangolo amoroso, infatti, io non mi ricordo, deve essere a qualche opening, in qualche situazione del genere. Io conoscevo già il lavoro, mi piaceva moltissimo. E qualche amico deve averci presentato. Io avevo chiesto a Italo di cantarci una canzoncina stile Marco Roma, ma si è, evidentemente si è vergognato. Italo e non l'ha fatto. Bene, no, Italo canta da Dio. Allora adesso in effetti potevo farla ragazzi, sporchissima con questo naso e metterla. Ma era benissimo. Dai. potevo farla sporchissima e mettere una canzone di Italo del 1986, sì. Però con enfasi lascerò il mio rifugio, ti porti appresso un demone veloce a corrompere, hai già dimenticato. Bellissimo, come fantastico. L'ha letta bene. Poi c'era infatti enfasi, così, che l'avevo detto io prima e tutti mi hanno sbugiardato, invece vedi che un po' di enfasi. Ce l'ho messa io. Ce l'hai messa tu l'enfasi? No, c'era anche scritta l'enfasi. Hai qualcosa da chiedere, Pasquini? No, io mi domandavo come mai i nostri amici di Panta 80 non sono qua fuori che scalpitano per la prossima trasmissione. Io mi fermo anche per Panta 80. Ah, grande. Sì. Ah, sì? Ma sì, allora infatti. A quel punto. No, io vorrei chiedere al curatore una ragione per non perdere questa mostra. Una ragione è il fatto che non sono così frequenti come dovrebbero essere le collaborazioni a quattro mani tra artisti. Giusto. Se ci pensate sono molto poche, sono rare. Quindi questa è una mostra, un progetto molto prezioso, proprio per sua natura, e il risultato è molto intrigante. Io ci pensavo anche l'altra sera venendomene via, sono immagini che ti rimangono addosso, te le porti dietro, pur non succedendo cose clamorose all'interno delle immagini, ma hanno la capacità di attaccartisi addosso, quindi andatela a vedere, perché tra artisti non succede così tanto delle collaborazioni. Sono d'accordo. Io poi frequento molti anche persone del mondo della musica, all'interno del mondo della musica c'è più consuetudine, adesso però secondo me un pochino di più, Io invidio, è un po' meglio, secondo me c'è un leggero trend di miglioramento di questa cosa, può essere, però è un peccato. Dovremmo imparare molto da mondi tipo quello della musica. Il mondo dell'arte è un po' ingessato, un po' rigido per certi versi. Sfondi una porta aperta, ci sono anche proprio dei modi diversi in cui circolano le economie, che secondo me, sai, io ho una prospettiva materialista, quindi secondo me conta questo, è inevitabile. Lavoriamo su cose più difficili, non più difficili, più difficili da un punto di vista materiale, cioè nel senso, se uno fa un album, l'album che ho io a casa è l'originale come ce l'hai tu, per vedere un quadro, per vedere una foto, o vai da Alchemilla o vedi una documentazione. Invece il disco, quando ti arriva il disco, ormai non ci sono manco più, Spotify, quando lo apri l'originale, certo. Non è la documentazione del brano. Questa cosa inevitabilmente porta poi ad un approccio più, ad una conoscenza minore a livello proprio comunitario, sociale. Cioè, questo sarebbe un grandissimo tema per una puntata, per una puntata. Ci si potrebbe fare tutta una puntata. Possiamo fare la puntata di Panta 80. Ci chiudiamo dentro come a chiave e facciamo Panta 80. Io dalla mia parte qui avrei ancora 6 minuti, ma io dalla mia parte qui invece ci salutiamo e non posso ci neanche dire un'altra cosa da Alessandro Trapezio. Puoi dire un'altra cosa da Alessandro Trapezio? Dici qualcos'altro di te, del tuo lavoro in generale, in una parola. Ci dicono Panta 80, ci stanno ricordando che in una parola ci ha dato l'ok, possiamo andare avanti per sgarrare come al solito, dai. Madonna, che domanda difficile. Non lo so, perché prima che cosa i nostri ascoltatori, che cosa vorresti che sapessero di te? Che sono che non sai rispondere, che sa fare delle fotografie che non sa rispondere a delle domande così su due piedi, però sì, che vale la pena conoscere, approfondire il mio lavoro, e che non sono solo un fotografo, ma sono totalmente un fotografo, sì, quindi fotografo, ma è totalmente un fotografo. Fantastico, insomma, per riuscire a fare ordine nelle vostre menti dovete andare a vedere la mostra, perché forse da questa breve spiegazione non vi siete fatti precisamente. E naturalmente da domani su www.coxospaziale.blogspot.com troverete un link che vi porterà a vedere qualcosa di Alessandro Trapezio. Bene, io faccio scattare la mia penna quattro colori. E io invece faccio sentire sta cosa qua. Senti un po'. Hai capito? Te la ricordi? No. Ah, sì. This is the story of my baker. Non so perché mi è partita così. Beh, non è male questa chiusura. Ci sta. Questa era Coxo Spaziale. Io naturalmente ero Chiara Pergola. Io ero Stefano W. Pasquini. Io Alessandro Trapezio. Io Italo Zuffi. E Antonio Grulli. Antonio Grulli non c'è. Dopo. Dopo su Panta 80 con Antonio Grulli. Fantastico. Grazie. E naturalmente a lunedì prossimo. Grazie. Ci vediamo lunedì tutti allora. Tutti qua. She was the leader's cat.